Rassegna eventi. È sempre un parto iniziare questa rassegna eventi, sembra. Sì, ma comunque bentornati su Radio Wombat, 13:59 AM. Questa è la prima rassegna eventi che va sulle frequenze M, la nostra perlomeno. Sì. Cosa è successo? Raccontiamo. No, cosa succederà no, questa cosa settimana? Succederà? Questo è sul futuro. Questa trasmissione qui è sul futuro. Questa è sul futuro, è vero. Velocemente, da martedì 6 marzo, dalle ore 18, presso le stanze della polveriera Spazio Comune, via di Santa Reparata 12R, l'assemblea è aperta per la scelta del nuovo tema di Ribellarti. Mercoledì 7, quindi mercoledì questo, sempre, ore 21, presso il Polo di Novo, edificio D5, verso il corteo dell'8 marzo e lo sciopero globale contro la violenza di genere, di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, una lettura pubblica di alcuni brani scelti da I monologhi della vagina di Ev Esler con Leonora Gemmi, Eva Mecacci e Marta Fantechi e Lucia Banci. Mentre invece l'8 marzo, giovedì 8 marzo, presso le ore 15:30 in Santissima Annunziata si terrà il corteo cittadino a Firenze, sciopero globale delle donne organizzato da Non Una di Meno Firenze, alle ore 15:30 in piazza Santissima Annunziata, con musica, spettacoli e microfono aperto. Alle ore 18 invece partirà un corteo indecoroso per le strade della città. Mi raccomando, non mancate. Se volete saperne di più, andate a cercare il podcast della puntata 56 di Fuoco alle Polveri. Bravo. E venerdì 9 marzo, cioè il giorno dopo, alle ore 15 ci sarà davanti al Tribunale di Firenze, quel posto magnifico, in Viale Guidoni, un presidio di solidarietà nei confronti degli antifascisti fiorentini processati per i fatti delle piagge di qualche anno fa. Tutti ricorderete quando gli antifascisti fiorentini con un presidio e poi non con un corteo impedirono una manifestazione di Forza Nuova nel quartiere delle Piagge, per questo sono stati denunciati e adesso c'è il processo, per cui potrebbe avere anche la fine del primo grado. Quindi è importante essere al presidio di solidarietà verso i compagni che si sono sbattuti per buttare fuori gli schifi di Forza Nuova dalle Piagge. Passiamo poi a sabato 10 marzo dalle ore 17 alle 23:30 presso la polveriera, selezione cortometraggi, cucina thailandese e jam session. Borda, buono, fantastico. Sabato 10 invece presso Fuori Mercato, che è in via Gran Bretagna 133, dalle 19:30 Porco Mondo, è una serata di approfondimento dedicata al mondo del cibo, da come viene prodotto, mangiato e raccontato, a partire dal maiale, che è un simbolo importante, effettivamente è un simbolo maiale. Ci sarà l'esposizione della mostra per l'appunto Porco Mondo, con le vignette ispirate dai due libri realizzati dal celebre illustratore fiorentino Massimo De Micco. Alle 19:30 l'aperitivo per autofinanziare la serata e dalle 21:15 ci saranno, attenzione, Wolf Bukowski, che conosciamo bene anche noi, e Lorenzo Declic, il primo autore della Santa Crociata del Porco, un divertente romanzo barra saggio proprio sulla cultura del maiale, pubblicato da Legre l'anno scorso, e Lorenzo Declic invece, che ha scritto diversi saggi sull'Islam, tra cui l'Islam nudo, parleranno e alimenteranno il dibattito intorno al tema del porcello. Benissimo, se abbiamo detto via Gran Bretagna 133 presso Fuori Mercato. Sempre sabato 10 marzo, dalle ore 18, in Viale Corsica, Antifa Flow, Hip Hop, Free Entry, Bar Popolare e Aperello. Se non vi basta l'hip hop, all'Emerson, CSA Next Emerson, sempre sabato sera, Toscana Dub Gathering Number 5. E sempre sabato 10, dalle ore 4, il ritrovo è alle ore 4 in Piazza Santissima Annunziata per una biciclettata contro la partenza del Giro d'Italia da Israele, organizzato da BDS Italia. Eccolo lì. Ora, questo è quello che succederà durante la settimana. Ridiciamo un'altra volta, è l'ultima volta che lo possiamo dire in diretta, ma lo ripetiamo, che sta andando avanti il corteo per le strade di Firenze. Voci dal corteo ci dicono che tutta la storia del suicidio, tentato, cose iniziano a girare voci che non sia vera e che sia in realtà un omicidio a sfondo razziale. Aspettiamo ovviamente le valutazioni e quello che succederà nei prossimi giorni. Nel frattempo sta andando avanti il corteo, stanno andando avanti le proteste, quindi cerchiamo di andare, dai, via. One bad. Rassegna eventi.